Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Shyness is nice and shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. Shyness is nice and shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. So if there's something you'd like to try, if there's something you'd like to try, ask me, I won't say no, how could I? La musica è quella degli Smiths, le parole quelle di Donato Carrisi per questa nuova puntata del Cacciatore di Libri in versione estiva, parole e musica. Donato Carrisi, dunque, è uno dei giallisti più famosi in Italia, sicuramente uno dei più venduti. Anzi, dovremmo dire quasi thrilleristi, se esistesse la parola, perché la caratteristica di Carrisi è quella di scrivere dei thriller quasi all'americana. Si era detto molto di lui al suo esordio alcuni anni fa con Il Suggeritore, che era stato appunto definito un thriller all'americana. Adesso invece parliamo dell'Ipotesi del male, sempre pubblicato da Longanesi. Ci sono dei legami fra questo ultimo romanzo, L'ipotesi del male, e Il suggeritore. Innanzitutto e soprattutto la protagonista, Mila Vasquez, che è una poliziotta che indaga soprattutto su persone scomparse. In questo thriller, che è molto psicologico, ci sono poche scene pulp, per così dire, ma c'è molta indagine psicologica. In questo thriller, dicevamo, si indaga su alcune persone scomparse. Ad indagare, naturalmente, la Vasquez. Tutto, ovviamente, inizia con un omicidio. Beh sì, sicuramente, è un omicidio anomalo perché a commetterlo è una vittima. Esattamente una persona che ha deciso di sparire 17 anni prima, è scomparso e torna, ma per uccidere, questa strana cosa, questa strana vendetta che matura, ecco, in questo embrione di buio per 17 anni e poi si scatena improvvisamente e ovviamente ci dobbiamo chiedere il perché. Il perché lo scopriremo ovviamente leggendo le pagine del tuo romanzo. Ci giri intorno molto a questo tema degli scomparsi, perché non è l'unico scomparso che rientra nelle pagine del tuo romanzo. Dicevamo, le indagini su questo omicidio arrivano in qualche modo a quest'uomo scomparso 17 anni prima, ma non è l'unico scomparso. Chi sono questi scomparsi? Scomparsi che ritornano, quelli che nessuno mai ha raccontato, perché pensiamo sempre che la scomparsa sia un po' la fine, in un certo senso, e che il ritorno di alcuni scomparsi sia la fine di quell'avventura nel buio. In realtà le due cose sono estremamente sbagliate. La scomparsa è sempre l'inizio di qualcosa, qualcosa che rimane misterioso. Dove sono state queste persone? Cosa hanno fatto? Cosa hanno visto? E poi, soprattutto quando ritornano, cosa si portano dietro da quell'esperienza? Perché c'è qualcosa che potrebbe, per esempio, averli contaminati e potrebbe averli cambiati fatalmente. Da fuori sembrano sempre gli stessi, magari un po' invecchiati, però dentro di loro forse sta germinando qualcosa di malvagio. Ad indagare su questo omicidio e su tutte le altre cose che accadono nella trama torna l'investigatrice che era stata protagonista del tuo primo romanzo, Il suggeritore. Come mai hai deciso di farla tornare? Beh, Mila Vasquez era un personaggio che si prestava ad un nuovo racconto, però a me non piacciono né i sequel né i prequel delle storie. Ecco perché ho deciso di scrivere una storia nuova che contenesse però un piccolo prequel e un piccolo sequel del suggeritore, e ne è venuto fuori un romanzo gemello del suggeritore. Adesso sta al pubblico stabilire quale dei due è il più cattivo. Ma è necessario leggere prima Il suggeritore e poi questo romanzo, o si possono leggere in maniera assolutamente separata? Ecco, il trucco è proprio questo, si possono anche invertire le due letture, si può cominciare tranquillamente da questo e poi proseguire con Il suggeritore, sono intercambiabili. In quest'ultimo romanzo, L'ipotesi del male, dicevamo prima, c'è molta psicologia, cioè tu indaghi la mente di queste persone, anche di coloro che fanno del male, per capire perché sono arrivati al male. Non dico che c'è una giustificazione, ma c'è quantomeno una spiegazione. Quanto ti interessa indagare la psicologia del male? Beh, tantissimo, io parto sempre dal male, perché poi è dal male che si sviluppa il bene. Non immagino mai un lieto fine per i miei romanzi. Parto sempre da un finale che sia cupo, oscuro, soprattutto aperto, perché il male non deve mai avere una soluzione, deve essere sempre assolutamente irrisolvibile, anche se ovviamente deve esserci una gratificazione per gli investigatori e per i lettori che si immedesimano con loro. Però è da questo che parto sostanzialmente. Il male può essere sempre provato, ecco, nella vita reale. Per esempio, le prove del male sono una scena del crimine, un cadavere, l'arma del delitto, il sangue che scorre. Il bene non può essere mai dimostrato. Non si può dimostrare se il nostro atto di liberalità, per esempio, compiuto per aiutare qualcuno, in realtà nasconde il nostro bisogno di sgravarci la coscienza o di dimenticare quel qualcuno, semplicemente retribuendolo in qualche modo. Quando si è bambini, fare la differenza fra bene e male è fondamentale, no? I cattivi e i buoni, per avere delle sicurezze. Da adulti invece dobbiamo fare i conti con l'idea che bene e male a volte si trovano sulla stessa strada. Molti pensano che si tratti di una dicotomia, in realtà non è così, in realtà coincidono bene e male. Non sono le facce della stessa medaglia, sono la stessa faccia della medaglia, bene e male. Ed è inevitabile, insomma, è assolutamente inevitabile. Questo è un assunto antropologico che io mi sono permesso di sviluppare all'interno del libro, vale a dire l'ipotesi del male, che poi dà il titolo al romanzo stesso. E per questo bisogna domandarsi chi è realmente il cattivo in questa storia. Tu, lo sappiamo, sei anche un criminologo, insomma, quindi i tuoi studi ti hanno aiutato tantissimo nell'indagare il male e la mente criminale. Secondo te chiunque a questo punto può arrivare a compiere un crimine? Io penso di sì, penso di sì. C'è una situazione, diciamo, infieri in ciascuno di noi, c'è una condizione infieri in ciascuno di noi. Siamo tutti destinati a fare del male nel corso della nostra vita, a volte non ci rendiamo conto di quanto male possiamo fare con un gesto semplicissimo, anche con una semplice bugia, ecco, una semplice calunnia. Alcuni portano alle estreme conseguenze questo lato oscuro, ma tutti prima o poi dobbiamo fare i conti con lui. Quello che dico è che il nostro lato oscuro a volte è difficile vederlo, perché è difficile rivolgere lo sguardo dentro se stessi e abbiamo bisogno di qualcosa che ci faccia da specchio. In questo caso la grande passione dei lettori per i libri thriller è legata proprio a questo, cioè questi libri ci fanno da specchio, ci permettono di vedere il nostro lato oscuro come uno specchio, appunto, ci permette di vedere i nostri difetti fisici, altrimenti non riusciremmo a vederli. Insomma, un thriller può essere anche maieutico, ci fa vedere la nostra parte negativa e ce la fa anche accettare? Non so accettare, però forse cominciare un patteggiamento, sì. Sì, sì, si comincia a patteggiare, si comincia a comunicare col proprio lato oscuro. Io parlo spesso col mio lato oscuro, la risposta che ottengo di solito sono le storie che scrivo. In qualità di criminologo, insomma, di osservatore esperto anche della società, di quello che accade, spesso diciamo che nel mondo di oggi c'è più criminalità, più violenza rispetto a ieri. Secondo me forse non ci ricordiamo delle epoche passate che erano particolarmente violente. Insomma, i crimini stanno realmente aumentando o è solo la nostra percezione che è diversa? No, i crimini stanno diminuendo, ovviamente. Semplicemente adesso c'è il modo di apprendere determinate storie. Abbiamo i giornali, abbiamo internet, insomma è molto più facile comunicare oggi, no? Devo dire che grazie al cielo l'umanità evolve in questo senso. Ci sono dei crimini efferati che mal si addicono alla nostra epoca e ci dobbiamo domandare perché sia ancora possibile commettere determinati crimini. E questa la grande domanda che forse ci porteremo appresso fino all'estinzione. Riuscirà mai l'essere umano a superare questo suo istinto criminale, l'istinto che lo porta a uccidere a volte gratuitamente? Tornando al romanzo, si parla anche molto del concetto di vendetta, dell'idea di vendetta per pareggiare i conti. Tu come la vedi? Tu sei un vendicativo? Come tutti, sono un vendicativo. No, non è vero, io non sono vendicativa. e diffido di quelli che dicono di non essere vendicativi. No, devo dire che la vendetta forse è la cattiveria più diffusa in questo momento particolare, in questo nostro momento tecnologico particolare, perché ci sono più strumenti per consumare una vendetta. Per esempio, basta avere un profilo falso su internet, una falsa identità, e calunniare qualcuno pugnalandolo alle spalle. Insomma, di queste infamie purtroppo sentiamo parlare ogni giorno, per cui mi piaceva appunto riabilitare questo che sembra quasi un crimine, no, del passato di cui avevamo perso un po' la memoria, quasi un crimine nobile la vendetta, tanto per rifarsi al conte di Montecristo, insomma. La vendetta quindi come sentimento quasi nobile, insomma, nel romanzo di Donato Carrisi. Io adesso ti voglio strappare una promessa che ti ho chiesto di farmi tante volte. Vorrei essere uno dei tuoi personaggi che viene ucciso nei tuoi prossimi romanzi. Cioè, Alessandra Tedesco vorrebbe essere assassinata in radio durante una diretta. Puoi farmela questa promessa? Ma solo sul libro, perché sai che io sperimento tutto quello che scrivo. Quindi non so se ti conviene, e soprattutto non so se conviene a me. E vabbè, staremo a vedere se Donato Carrisi mi farà morire in diretta durante una trasmissione, magari proprio il cacciatore di libri, estate, musica e parole. E la canzone che Carrisi ha scelto per abbinarla così all'ipotesi del male è This is the End dei Doors. Noi ci risentiamo dopo la viabilità. This is the end. Beautiful friend, this is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise. As her body was still, all five horizons revolved around the sun, as the earth to the sun. Now the air I tasted and breathed, è Black dei Pearl Jam, la canzone scelta dalla seconda autrice di oggi, Rosella Postorino, l'ho preciso sempre, Rosella con una sola S, così ve lo ricordate meglio, autrice di Il Corpo Docile, pubblicato da Einaudi. Quando per la prima volta durante quest'anno vi ho parlato di questo romanzo, ho detto che l'avevo letto proprio di pancia più che con la testa, perché la scrittura di Rosella è proprio una scrittura emotiva che fa sentire le emozioni dei suoi personaggi. La protagonista è Milena, una bambina che nasce in carcere perché la mamma è detenuta. Al compimento del terzo anno di età, come prevede la legge, viene fatta uscire e affidata al padre, che però insomma un uomo scostante, un po' freddo, poi viene affidata anche alla nonna, insomma fa una vita un pochino complicata. Quindi si segue la sua vita dai 3 anni fino ai 20-25, quando da grande Milena decide addirittura di fare la volontaria in carcere, proprio perché conosce le difficoltà di quella vita, e poi finisce per innamorarsi di un giornalista. La prima cosa che ho chiesto a Rosella è come si è immaginata questa Milena. 4-5 anni fa ho scoperto, perché non lo sapevo prima, che esistono dei bambini che nascono in carcere, che vivono in carcere con le madri detenute fino a 3 anni. Scoprire questa cosa mi ha colpito moltissimo, perché è difficile, cioè è veramente terribile immaginare degli esseri umani che vengono al mondo dentro la galera, cioè dentro uno spazio chiuso, separato dall'esterno, da cui non si può uscire, circoscritto, dove non puoi decidere nulla, e neanche tua madre, che di solito è quella che protegge e che ti insegna, no, le cose della vita, può insegnarti nient'altro che quello che vedi, cioè dove l'orizzonte è sempre un muro. E questa idea dei bambini detenuti mi ha lavorato in testa per molto tempo, finché a un certo punto ho deciso che poteva diventare una storia. E per

Ed effettivamente tra i giochi preferiti dei bambini ci sono quello di giocare alle porte che si chiudono e che non possono essere riaperte. E a sentire proprio il rumore della chiave, come lo sentivano in carcere. Esattamente. È evidente che questo è, diciamo, simbolicamente il modo per dire quanto l'istituzione carcere può influire nello sviluppo psicofisico di un bambino. Altra cosa che fa molta tenerezza in questo romanzo è quando Milena da piccola cerca di fare la cattiva, perché sa che chi è cattivo va in galera, ma lei in realtà non vuole tornare in galera. Per lei la galera vuol dire stare con la mamma. Esattamente, perché il problema devastante dei bambini che stanno in carcere è che a 3 anni, appunto per come la legge adesso, devono essere strappati alle madri. Come fai a spiegare a un bambino questo abbandono? Anche perché loro vivono per 3 anni in simbiosi totale con questa madre, un po' perché per queste madri loro rappresentano tutto quello che hanno e tendono a tenerli dentro anche perché hanno paura di perderli, no? Di perdere il rapporto con loro, e un po' perché appunto, cioè, sei lì dentro, questo è l'unico mondo che conosce tua madre. Quando vai via senti probabilmente di aver meritato questo abbandono, e Milena è così, cioè si è sentita rifiutata dalla madre, certo. E tutti i suoi rapporti nella vita adulta sono fondati su questo, cioè sul senso del rifiuto e sul bisogno dell'accettazione, che è incapace però di trovare. E come sempre in tutte le storie sono i bambini le vere vittime di tutte le vicende. Nel romanzo si segue la vita appunto di Milena bambina, ma contemporaneamente in parallelo anche la vita di Milena da ragazza, 20-25enne, che incontra un giornalista, e qui sembra nascere un po' una storia d'amore. Senza raccontare troppo, proprio in un minuto, ci vuoi raccontare qualcosa di questo rapporto? Sì, questo giornalista che tra l'altro utilizza la scusa, o forse ha davvero l'intenzione di scrivere un pezzo sui bambini di Re Bibbia, diventa per Milena da un lato la possibilità di dare voce ai bambini di Re Bibbia, dall'altro lato diventa il desiderio conosciuto per la prima volta. Cioè Milena non ha mai conosciuto il desiderio per qualcuno che fosse al di fuori del suo mondo, della sua gabbia, anche proprio metaforica, in cui lei si è costretta a vivere, e quindi lui rappresenta da un lato la finestra da cui uscire fondamentalmente. Per l'appuntamento con l'audiolibro ho scelto uno dei miei libri preferiti, cosa che faccio spesso in questo appuntamento sulla lettura. Il libro è La Camera Azzurra di Simenon, uno dei cosiddetti non Maigret, insomma non parla di Maigret ma parla di altre cose. E in questo romanzo lo scrittore belga immagina un uomo, Tony, che è felicemente sposato e però vive una storia, diciamo, extraconiugale, una storia passionale con un'ex compagna di classe, André. Il marito di lei però muore in circostanze misteriose e da qui, insomma, inizia una trama piuttosto accattivante. E allora sentiamo La Camera Azzurra di Giorgio Simenon, letto dall'attore Claudio Santamaria. Non gli passava neanche per la testa di avercela con André perché gli aveva morso il labbro. Faceva parte dell'insieme, come tutto il resto. In piedi, anche lui nudo, davanti allo specchio sul lavandino, si tamponava la bocca con un asciugamano imbevuto d'acqua fredda. Tua moglie ti chiederà spiegazioni? Non credo. Ma a volte qualche domanda te la fa, no? Le parole contavano poco. Parlavano così, per il puro piacere di parlare, come succede dopo l'amore, quando il corpo è ancora eccitato e la testa un po' vuota. Hai una bella schiena. L'asciugamano era punteggiato di macchie rossastre. In strada un camion vuoto sobbalzava sul selciato. Dai tavolini del bar dell'albergo giungeva un vocio confuso. A tratti si riuscivano a distinguere alcune parole, ma slegate l'una dall'altra, cosicché il senso della frase risultava incomprensibile. «Mi ami, Tony?» «Penso di sì». Scherzava, ma senza sorridere, per via del labbro inferiore che continuava a tamponare con l'asciugamano inumidito. «Non ne sei sicuro?» Si girò a guardarla e gli fece piacere vedere quel seme, il suo seme, così intimamente mischiato al corpo di lei. La camera era azzurra, di un azzurro, aveva notato un giorno, simile a quello della lascivia. Un azzurro che lo riportava all'infanzia, ai sacchetti di tela grezzi pieni di polvere colorata che sua madre diluiva nella tinozza del bucato prima di risciacquare la biancheria e stenderla sull'erba scintillante del prato. A quel tempo lui doveva avere 5 o 6 anni, e si chiedeva come mai una polverina azzurra potesse ridare il bianco ai tessuti. Gli sembrava un miracolo. In seguito, quando la madre era morta da un pezzo e ormai i tratti di quel viso familiare cominciavano a svanire nella sua memoria, si era anche chiesto perché la povera gente come loro, nonostante gli abiti rattoppati, attribuisse tanta importanza al candore della biancheria. Era questo che stava pensando in quel momento. L'avrebbe capito soltanto dopo. Anche per questa puntata del Cacciatore di Libri versione estiva Parole Musica è tutto. Vi ricordo che va in onda ogni sabato alle 16, la versione invece tradizionale del Cacciatore di Libri, sempre il sabato alle 6:45 del mattino e alle 21 dopo il GR. Come sempre trovate tutto su www.radio24.it. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.